Buongiorno a tutti i nostri ascoltatori e ascoltatrici, siamo qui in compagnia di Enrico Tabellini, curatore artistico di Wunderkammer, il Museo delle Meraviglie, e scopriamo ora insieme di cosa si tratta. Buongiorno a tutte e a tutti. Allora, Wunderkammer è la oramai quarta edizione della nostra rassegna, appunto, che comincia domani 15 febbraio fino a giugno inoltrato, alla scoperta dei tesori e delle collezioni del Museo della Musica. Quindi una stagione intera di narrazioni musicali con gli esperti, di incontri con i maestri costruttori di strumenti musicali, di speciali visite, dopo magari ne parleremo più del dettaglio, e soprattutto dei concerti di insolita, la musica che non ti aspetti, i concerti inauditi che cominceranno sempre all'interno della rassegna a metà di aprile fino a fine maggio. Dunque, lei ha detto che questa è la vostra quarta edizione, quali sono quindi le novità di quest'anno? Allora, le novità sono intanto che abbiamo creato quattro, diciamo, cicli all'interno della rassegna, che è molto ricca. In realtà sono più di 30 eventi nel corso dei 5 mesi di Wunderkammer. Partiamo quindi il 15 di febbraio con il primo dei 4 appuntamenti, uno al mese, di Come è fatto, la musica vista da dentro, in cui andremo a parlare degli strumenti musicali proprio con dalla viva voce dei costruttori degli strumenti. Quindi il 15 di febbraio l'albero vibrante, quindi un escursus su tutte le proprietà acustiche del legno, o dei legni in realtà, che sono stati utilizzati dal Medioevo a oggi per gli strumenti musicali, per passare alla storia della liuteria il 21 di marzo, il 4 aprile su uno strumento che è molto curioso, il cornetto, con uno dei migliori costruttori e cornettisti italiani, Claudio Canevari, per finire con l'organo con le ali, questo particolare organo che tecnicamente si chiama portativo, nel senso che sarebbe portatile, in realtà è enorme, ma Nicola Ferroni lo ha reso, diciamo, smontabile e trasportabile, e sarà il nostro strumento ospite per tutti i concerti di Insolita. C'è il ciclo di narrazioni musicali, si chiama VK. In questo ciclo noi andremo a prendere dei tesori sconosciuti ai più, ma in realtà fondamentali per la storia della musica, dalle nostre collezioni, e li presenteremo in questa serie di narrazioni musicali. Partiamo con, faccio qualche esempio perché poi sono tanti, ancora che col partire è praticamente, visto che siamo sotto Sanremo, è stata una hit musicale del 500, un brano famosissimo, fondamentale per la storia della musica. Proprio domenica 16 febbraio alle ore 5 ne parleremo qui al Museo della Musica alle 5. Poi passeremo a parlare di Ottaviano Petrucci, che è, come dire, il Gutenberg della musica, di cui noi, il Museo della Musica, possiede l'unico esemplare esistente al mondo del primo libro di musica stampato della storia, per poi passare a altri incontri, la selezione di libri del saggiatore musicale su Bach, Verdi e Mascagni, fino a una cosa molto particolare, il musical barocco sulla vita di Alessandro Stradella, è la proiezione del film di Alessandro Leprino sulla fantasmagorica vita del grande compositore Alessandro Stradella. Passiamo alle visite guidate, è un po' improprio perché sono sempre molto particolari. Sono di tre tipi quest'anno, questa è un'altra delle novità della nostra stagione. Le visite guidate noi le facciamo in maniera un po' strana, praticamente una domenica sì e una no, cioè tutto il calendario ovviamente è disponibile anche online. Noi siamo a disposizione per il pubblico sia la mattina che al pomeriggio, uno prende il biglietto, può venire qui in museo, e noi siamo a disposizione per fare le cosiddette visite a domanda aperte a rilascio prolungato. Uno può farci tutte le domande che vuole sulla collezione di documenti musicali del museo. Troverete nel programma però il 22 aprile anche la visita sonata, quindi in museo ci andremo, ma in parole e musica, assieme a Fabrizio Longo e a Domenico Cerasani, con le loro performance proprio nelle sale, fino a, questa è una novità assoluta, e speriamo che funzioni bene, maniera, misura e virtute, la visita danzata. Il domenica 5 aprile alle ore 15 ci sarà la possibilità di partecipare a un laboratorio con Enrica Sabatini, che è una delle danzatrici di musica antica più importanti d'Italia. Quindi dalle 15 alle 17 ricostruiremo una delle danze che noi conserviamo qui in museo, e poi alle 17:30 questa visita che dovete immaginarvi sembrerà un po' la scena del Gattopardo, praticamente in giro nelle sale con la compagnia di danza storica Guglielmo Ebreo da Pesaro. Per finire, i concerti appunto di Insolita. Come dicevamo prima, noi chiediamo ai musicisti di proporci le cose più strane, più assurde, perché vogliamo farvi sentire qualcosa di veramente inaudito, che siamo sicuri che voi non abbiate mai sentito. Per cui partiremo, anche qui i concerti sono diversi, io vi segnalo magari quelli più importanti, il 24 aprile con Aria di Follia, che per la prima volta vengono a Bologna, Io Soy la Locura si chiama il concerto. Il Respighi Suite, i nuovi arrangiamenti per dei brani celeberrimi di Respighi dell'Orchestra del Baraccano. Quest'altro concerto assolutamente imperdibile, il 15 maggio, Pittura Musica, l'ensemble Sensus si è fatto costruire da Michele Sangineto, gli utai più pazzi d'Italia, gli strumenti che compaiono nelle opere di Raffaello Sanzio, di cui quest'anno ricorrono i 500 anni l'anniversario, e farà un concerto su musiche originali, ma soprattutto su questi strumenti assolutamente inauditi, probabilmente anche all'epoca. Fino al 22 maggio l'ensemble Paradiso 1616 ha il Vivaldi Stravagante, perché quest'anno sì, facciamo anche Vivaldi, siamo un po' pop, diciamo, fino all'ultimo concerto del 30 maggio. Insomma, trovate tutte le informazioni ovviamente sul sito del Museo della Musica, museibologna.it/musica. Quasi tutte le narrazioni musicali sono gratuite. Trovate invece il prezzo molto popolare dei concerti, perché vogliamo che sia accessibile a tutti. Un'ultima cosa: prenotatevi, perché la sala eventi ha 100 posti, non è obbligatorio prenotarsi, però se si vuole essere sicuri di entrare è meglio sempre andare sempre sul sito e prenotarsi direttamente sul sito. Perfetto, quindi ricordiamo infine che la rassegna comincia domani e finisce il 21 di giugno. Io ringrazio di nuovo Enrico Tabellini. È stato un piacere e buona musica.